il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il Veneto non ha sette città, ne ha otto, perché ce n'è una molto particolare vicino a Polverara, paese conosciuto da molti per la gallina di Polverara, però vicino c'è anche una città particolare che si chiama la città degli asini. In realtà è un centro appunto molto originale, del quale chiediamo alla fondatrice Lorena Lelli di dirci che cos'è la città degli asini. La città degli asini è un centro che si occupa di interventi assistiti con gli animali e nello specifico con gli asini. Gli ambiti di questi interventi assistiti con gli asini sono appunto le terapie, i percorsi terapeutici, per cui la famosa pet therapy, i percorsi educativi e anche le attività ludiche e ricreative. Ci occupiamo di attività di socializzazione e relazione prevalentemente. Quindi con gli asini, soprattutto con i bambini. E da dove arrivano questi asini? Quanti sono? Allora, i nostri asini sono 15, però poi non dobbiamo dimenticare Principessa, che è una pony, Varen, che è un muletto, le nostre due caprette Spotty e Squaterna e non per ultima Calamity, che è una trottatrice. I nostri asini arrivano, tutti gli animali in verità, la città degli asini, arrivano da macellazione sicura, da maltrattamenti oppure animali fine carriera, definiti fine carriera. Che cosa si fa con questi, soprattutto con questi asini? Che cosa vuol dire terapia con gli animali, in particolar modo con gli asini? Cioè, che cosa fa per esempio un bambino quando si avvicina ad un asino? Allora, per identificare meglio la terapia assistita, se vogliamo parlare di terapia assistita, pet therapy o onoterapia nello specifico, quella fatta coinvolgendo l'asino, dobbiamo pensare a percorsi lunghi, perlomeno che durano almeno dai 3 ai 6 mesi, con incontri settimanali. Tutti i bimbi, perché prevalentemente noi ci occupiamo della fascia minorile, vengono seguite da un'equipe multidisciplinare che è all'interno della città degli asini. Abbiamo il medico, psicoterapeuti, abbiamo psicologi, abbiamo educatori e anche coadutori dell'animale, cioè la figura che conosce molto bene i recinti, il setting, e conosce specificatamente il carattere, le abitudini di ogni asino. Questo centro è quasi unico in Italia, sono pochi i centri che fanno questo tipo di attività. Com'è nata l'idea di questo centro? Effettivamente la città degli asini è uno dei rari centri che lavorano sul territorio nazionale seguendo quelle che sono le linee guida nazionali. In Veneto siamo stati i primi già nel 2005 a legiferare in merito in questa materia, creando una legge, delle linee guida e un manuale operativo. Cosa può trovare chi si rivolge a voi e come giungere a questo centro? Noi abbiamo un bellissimo sito www.lacittadegliasini.it oppure tramite la nostra mail info@lacittadegliasini.it. Sul sito trovate anche il numero di telefono del centro, potete chiamare liberamente se siete curiosi, venirci a trovare, siamo a Polverara in via Riviera numero 20. Io sono appunto Lorena Lelli, la responsabile del centro, che da poco fra l'altro è diventata una cooperativa sociale di tipo A, per cui lavoriamo molto nel sociale, lavoriamo molto con la tutela minorile, con i bimbi che vivono un disagio sociale importante. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. In linea con il quadrifoglio, oggi stiamo parlando di asini, anzi della città degli asini, con Lorena Lelli, fondatrice di questo originale centro. Questo è anche un centro di studio, voi siete in contatto anche con le università, potremmo dire anche questo? Sì, noi siamo uno dei pochi, forse diciamo l'unico, non sono presuntuosa, però insomma, centro di formazione. Noi prepariamo operatori, figure anche sanitarie, nel lavoro con l'asino nei recinti. Collaboriamo con l'Università di Veterinaria di Legnaro, di Padova, con la quale stiamo anche intrattenendo un progetto di ricerca. Collaboriamo con l'Università di Psicologia e anche Scienze dell'Educazione, oltre che lavoriamo con il Centro di Referenza Nazionale sugli interventi assistiti con gli animali. Ci puoi raccontare una storia particolare successa qui in questa città, magari nel rapporto di un bambino con un asino, qualche cosa che ti ha particolarmente colpito e che dà anche soddisfazione per portare avanti questa attività che è in gran parte di volontariato? Allora, vabbè, l'ultima per ordine di data, una bimba che è venuta da noi per un percorso 3 anni fa, è stata alla Città degli Asini, ha fatto un percorso di circa 10 incontri con l'asino. Allora, noi lavoriamo permettendo all'asino di relazionarsi liberamente con gli utenti, con noi, per cui non viene montato, non gli viene messa l'unghina né capezza, non viene costretto a fare nessun tipo di attività. Di conseguenza siamo noi che entriamo nei recinti e di solito avviene la scelta, così la chiamiamo, dove l'asino incontra il bambino, un asino specifico incontra un bambino specifico e lì si forma una coppia che perdura per tutto il percorso. Ecco, questa è la storia di una bambina che è venuta 3 anni fa, è venuta a trovarci un mese fa circa, è entrata nei recinti e la Rossa, così si chiamava, fra l'altro un'asina che ha subito maltrattamenti prima di arrivare qui da noi e che non si è mai relazionata con nessuno tranne che con gli operatori che conosce bene, ha incontrato questa bimba, l'ha riconosciuta e nei recinti ha iniziato a giocare con lei. Ecco, per me questo è stato un momento importantissimo, per me e anche per l'educatrice che l'ha riportata ad incontrare Rossa di nuovo. Grazie. Grazie a voi. Concludiamo come al solito la trasmissione con alcune notizie. Le prime arrivano dall'Europa. Quote latte, niente multe all'Italia nel periodo 2013-2014. Lo ha annunciato la Commissione europea, secondo la quale i produttori di latte italiani non hanno superato le quote di produzione loro assegnate per il periodo dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2014. La produzione italiana, per quanto riguarda le consegne alle latterie, si è attestata al meno 1,1%, ovvero 114.000 tonnellate di latte in meno rispetto alla quota nazionale. Per quanto riguarda invece le vendite dirette in azienda, sono state inferiori anche queste di 24.000 tonnellate rispetto ai quantitativi assegnati. Passiamo a parlare di smog, nuova procedura di infrazione purtroppo per l'Italia. La messa in mora è avvenuta a causa del mancato rispetto da parte del nostro paese della normativa europea che dal 2005 impone livelli massimi di concentrazioni di polveri sottili. La Commissione europea ha individuato in ben 10 regioni italiane, tra cui il Veneto, un totale di 19 zone e agglomerati con livelli di smog troppo elevati. Le autorità italiane dovranno fornire entro ottobre i chiarimenti necessari. La scorsa settimana abbiamo parlato della birra antoniana, la prima birra a chilometri zero. Questa settimana riprendiamo l'appello della birreria Pedavena e della cooperativa La Fiorita ai bellunesi, che è quello di coltivare più orzo in Valbelluna per la produzione della birra Dolomiti. Condivido in pieno l'esigenza di fare un ulteriore passo che faccia crescere la produzione di birra Dolomiti, tutta bellunese nella formula e nei suoi ingredienti, a partire dall'acqua e soprattutto dall'orzo, e invito quanti hanno terreno adatto a coltivare questo cereale, materia prima di una grande bevanda che non teme la concorrenza dei nomi internazionali più blasonati, ha invitato anche il presidente della regione, Luca Zaia. Concludiamo ricordando che, come ormai tradizione, si sta svolgendo in questi mesi il Festival del Baccalà, una competizione culinaria tra i ristoranti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Sino al 20 novembre, data ultima delle numerosissime cene che sono in calendario, i clienti dei ristoranti potranno decidere nelle singole cene evento il piatto a base di baccalà, quest'anno sia salato che stocco, quello che sarà più meritevole di partecipare alla finale del 3 dicembre, dove sarà assegnato il trofeo Tagliapietra. L'elenco delle serate e le ricette premiate nelle scorse edizioni si trova sul sito www.festivaldelbaccalà.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.